Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Come si svolge un attacco hacker su grande scala? Quali sono le strategie? Che tipo di organizzazione c'è dietro? Proveremo a rispondere a questa domanda a partire da un caso concreto emerso di recente, quello di APT33, un'organizzazione volta allo spionaggio informatico, quasi certamente legata al governo iraniano, che da alcuni anni è attiva nella raccolta di informazioni di carattere, diciamo così, strategico-industriale, soprattutto in settori come la difesa o come l'industria petrolchimica. Questo nome in codice, diciamo così, APT33, è stato attribuito a questo gruppo da FireEye, che è una società che si occupa di sicurezza e intelligence informatica, che lo scorso 20 settembre ne ha trasmesso il profilo. Ed è precisamente con uno dei loro esperti, Daniele Nicitta, Consulting System Engineer di FireEye, che ne parliamo. Buonasera Nicitta. Buonasera. Allora, senta, per prima cosa ci aiuti a capire un po' meglio quali sono gli scopi e anche quali sono gli obiettivi colpiti da questo gruppo, per quanto almeno emerso dalle vostre indagini. Allora, questo gruppo, come giustamente ha detto lei, APT33 è un gruppo che noi associamo allo Stato iraniano e che abbiamo cominciato a tracciare dal 2013 ormai. Il report di cui lei parlava è relativo a quello che questo report, che questo gruppo ha fatto negli ultimi 2-3 anni, quindi principalmente dal 2016 in poi. E gli obiettivi di questo gruppo negli ultimi 2 anni si sono focalizzati principalmente in ambiente militare, nel cercare di raccogliere informazioni in ambito aeronautico principalmente, e dal punto di vista economico di raccogliere informazioni legate all'industria petrolchimica di stati confinanti principalmente, o di fornitori di stati confinanti. Quali sono i paesi più attaccati? Allora, principalmente per quanto riguarda l'ambiente aeronautico, Arabia Saudita e Stati Uniti. Per quanto riguarda la petrolchimica, l'Arabia Saudita stessa e uno dei suoi fornitori, ovvero sia la Corea del Sud. Dunque, allora proviamo a fare una sorta di cronaca di questi attacchi hacker. Cioè, le chiedo insomma se ci racconta un po' come agiscono. Allora, una delle prime cose che APT33 ha fatto è inviare email a dipendenti di aziende saudite, comunque indipendenti dei propri bersagli, offrendo posti di lavoro. La cosa interessante è che offriva reali offerte di lavoro, quindi c'è stata tutta un'attività di intelligence da parte di questo gruppo per capire quali offerte di lavoro nell'ambito petrolchimico esistevano, per poter poi inviare email di phishing a persone potenzialmente interessate a queste posizioni, e aumentando di fatto la possibilità che queste persone venissero tratte in inganno cliccando su questa mail di phishing e arrivando in contatto con il malware che loro hanno correttamente preparato e sì, compromettendo il proprio sistema. Ecco, questo fa capire insomma anche che tipo di appunto di lavoro di intelligence c'è dietro in questi casi. Quindi si prendono di mira delle persone ben precise perché ci si vuole impadronire di fatto delle loro autorizzazioni informatiche. Questo è il punto, no? Lo scopo è quello, in modo da poi poter entrare nel sistema e rubare i dati. È corretto. Il primo step sempre di qualsiasi attacco è quello di riuscire a mettere un piedino dentro. Mettere un piedino dentro, quasi sempre si utilizza l'errore umano, e in questo caso è esattamente quello che è avvenuto, ovvero sia mail molto puntuali in cui qualsiasi essere umano avrebbe potenzialmente cliccato, anche noi immagino, e questo è stato la prima fase. Subito dopo chiaramente sono venute altre attività legate all'escalation di privilegi, o comunque a guadagnare privilegi all'interno dell'organizzazione compromessa per poter fare ulteriori attività. Dunque Nicita, che cosa vi fa dire che questo gruppo APT33 è iraniano e realisticamente addirittura di natura governativa? Allora, l'attribuzione è estremamente complessa normalmente da fare. In questo caso riusciamo a capire che si tratta di un'organizzazione iraniana perché quello che hanno fatto si matcha perfettamente con quelle che sono in questo momento le esigenze del governo iraniano. Quindi intanto diciamo che ci sono degli obiettivi che corrispondono agli interessi dell'Iran. Nazionale. Questo è un primo aspetto. Seconda cosa, molto più tecnica, è l'analisi dei codici che questi signori hanno utilizzato o delle tecniche, tattiche o procedure che questi signori hanno utilizzato. In particolare i malware che hanno utilizzato, una volta analizzati, hanno, come dire, evidenziato l'utilizzo di lingue o comunque della lingua che viene utilizzata principalmente in Iran, hanno evidenziato l'utilizzo di risorse esterne, quindi domini compromessi già utilizzati precedentemente da entità governative iraniane, e già questi due dati di per sé sono sicuramente un ottimo indizio. Addirittura siamo arrivati a individuare probabilmente quelle che sono le persone che lavorano all'interno di questo ufficio, almeno una persona per così dire, e queste persone sono non solo associate al governo iraniano, ma anche probabilmente dipendenti. E questo ci viene dall'analisi, per esempio, dell'attività che questo gruppo ha all'interno dell'orario settimanale di lavoro, che ben si sposa con gli orari di lavoro dei dipendenti pubblici in Iran. Dunque, Nicita, sempre per cercare di capire un po' meglio, insomma, anche questo mix, diciamo, di automazione, di intervento umano, di tecnologia e di artigianalità che c'è in un'operazione del genere, ecco, c'è un errore che a un certo punto è saltato fuori durante le vostre indagini, che forse ci aiuta un po' appunto a capire come funzionano questi gruppi. Corretto. Quando si parla di email di spear phishing, di solito si parla di email molto ben scritte destinate a singole persone. In questo caso l'errore che hanno fatto questi signori non è stato inviare mail già modificate, quindi caro Daniele Nicita, ecco qui la posizione di lavoro che potrebbe interessarti, ma hanno mandato direttamente il form generico con tutte le variabili. Caro, nome e cognome, questo è il lavoro XXXX, quindi si è capito che c'era in corso un'attività sistematica in qualche modo. C'era in corso un'attività che poi ha dato, nella seconda ondata per così dire, di email che proponevano offerte di lavoro, questo problema è stato ovviamente risolto. E quindi questo è stato un buon indizio a chi si difendeva della probabile imminente natura anche della natura di questo attacco. Però ci dice qualcosa anche su queste organizzazioni, no? Ci dice qualcosa, perché noi immaginiamo queste organizzazioni come persone mediamente molto giovani, dai capelli lunghi, barbe sfatte, geniacci. La macchia dell'hamburger sulla maglietta, no? C'è questo immaginario. E invece parliamo di gente che... Gli hamburger, però probabilmente sì. Sì. Ecco, comunque voglio dire, invece sono persone che si alzano la mattina, vanno al lavoro, seguono il loro bello orario di lavoro. Esattamente, sono dipendenti più o meno di un'azienda o di uno stato, di un'organizzazione, che lavorano dalle 9 alle 18 e hanno una vita privata. Hanno una vita privata e fanno errori a volte così di superficialità. Senta, ciò detto, però, voi descrivete questo gruppo, che pure abbiamo capito non è il massimo della raffinazione possibile, pericoloso ma non pericolosissimo come probabilmente ce ne sono altri. Ecco, però voi parlate lo stesso di un gruppo dal potenziale distruttivo. Ora, quello che vorrei capire è se un gruppo di questo tipo, un'organizzazione di questo tipo, che ha manifestato comunque capacità di spionaggio non indifferenti, potrebbe avere anche capacità di tipo operativo, cioè una volta prese certe autorizzazioni, per esempio intervenire sul funzionamento di una fabbrica o qualcosa, introdurre difetti in un progetto, che ne so. Allora, l'Iran è cresciuto tantissimo negli ultimi anni nelle sue capacità. Nello specifico questo gruppo ha utilizzato codice e quindi ha già nel suo portafoglio del codice in grado di distruggere sistemi operativi o cancellare in maniera permanente informazioni. Quindi la risposta è sì, direi. Questo gruppo ha sicuramente potenziale per fare danni all'interno di organizzazioni, cancellando dati, cancellando sistemi, modificando anche, se vogliamo, informazioni. E se questo gruppo deciderà di andare nel mondo verso, per esempio, il mondo SCADA, potrà anche fare effettivamente qualche attacco che avrà ripercussioni fisiche. Insomma, questo per capire la rilevanza di queste tematiche. Forse finora abbiamo visto poco di quello che potrebbe accadere, o forse sono anche accadute cose di cui diciamo non si può parlare, o molti stati non hanno interesse a parlare. Corretto, alla fine anche chi subisce, chi attacca, ovviamente non ha desiderio di pubblicizzare la cosa, a meno che non ci sia dietro un motivo politico nell'attacco stesso, e ci sono casi anche in questo caso. E chi subisce attacchi non sempre ha vantaggio a dichiararlo, sia per motivi di reputazione, sia per motivi di risposta a un attacco stesso. Certo, ci sono attacchi informatici che sono equivalenti ad atti di guerra, quindi dichiarandoli si sarebbe poi anche costretti a dare risposte di un certo tipo. Grazie, grazie Daniele Nicita. Grazie a lei. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata a voi tutti.